E l'alba nel mare già respirano le bianche vele. Ascolto un eco dolce che mi chiama. È la vita che chiama me. Libero, voglio vivere come rondine che non vuole tornare al nido. Cercatemi e i ricordi, gettarli in fondo al mare. Corre la vela mia, corre per il suo mare. La può mai fermare. Naviga, naviga, naviga, naviga, scivola, scivola, scivola, col vento va verso la libertà. Fantastico e incredibile.